grazie per essere qui così numerose e numerosi in un sabato pomeriggio, ci fa molto piacere. Ringrazio i nostri invitati. Grazie a Nicoletta che è collegata online. Purtroppo per problemi insomma personali dell'ultimo minuto Nicoletta non è potuta venire in presenza, però ci teneva e ci tenevamo comunque ad avere questo dialogo. E quindi veramente ti ringraziamo per questo collegamento online. Allora, io provo a fare questa introduzione spiegando un po' il senso di questa iniziativa e di questo dialogo che ci tenevamo a portare. Io sono Giulia Favini, presidente di Antigone Emilia Romagna, e aveva senso per noi appunto aprire questa finestra, questo dialogo rispetto a una critica radicale della reclusione. Infatti così abbiamo chiamato questo incontro: abolire la reclusione per una critica radicale a CPR e carcere. Perché ci sembrava importante andare anche a ragionare collegando questi due luoghi di detenzione, la detenzione dei migranti irregolarizzati, delle persone migranti irregolarizzate, e la detenzione delle persone accusate di aver commesso un qualche tipo di reato. E qua a discuterne Francesca Esposito, che è curatrice di uno dei due libri, Corpi reclusi in attesa di espulsione, e Nicoletta Dosio, che invece è l'autrice dell'altro libro, Fuori dal carcere, e Martina Tazzioli e Valerio Monteventi a dialogare comunque con le curatrici e con gli autori. L'idea di presentare questo, diciamo, di unire la presentazione di questi due libri nasce personalmente proprio dalla... avevamo l'idea con Francesca di presentare il libro Corpi reclusi in attesa di espulsione da vario tempo. È un testo che tratta della detenzione amministrativa delle persone migranti in Europa, nel contesto in particolare della crisi del Covid. Prendendo la crisi del Covid, la crisi pandemica, e come diversi paesi, in diversi contesti, si è reagito a quella crisi come lente prospettica per ragionare intorno alla detenzione amministrativa. Perché lì qual è la questione? La questione è che la detenzione amministrativa dei migranti, che è delle persone migranti, che è giustificata con il fatto dell'espulsione, con la necessità quindi di trattenere per poter poi espellere, è continuata anche laddove i confini erano chiusi e quindi l'espulsione di fatto era impossibile. E allora quello diventa un momento importante, un momento centrale, un momento rivelatore per andare a ragionare su l'effettivo senso di questa detenzione amministrativa, no? Le funzioni magari non sono così evidenti diciamo in un contesto più normale, in un contesto non pandemico. Per cui abbiamo partecipato a questo libro insieme a Francesca, che l'ha curato, insieme a Emilio Caglia e Giacomo Mattiello, che oggi non ci sono. Abbiamo scritto anche io, ha scritto Martina un pezzo all'interno del libro. Dopodiché, questo succedeva a settembre, a Livorno ho avuto la fortuna di andare ed essere invitato a una presentazione del libro Fogli dal carcere a Livorno e ascoltare Nicoletta che parlava di questo testo. E parlava di questo testo che, Fogli dal carcere, che ha una gran quantità di connessioni con i discorsi che invece noi stavamo facendo sulla detenzione amministrativa. Nicoletta si trova in carcere, in una sezione femminile all'interno di un carcere maschile, nella sezione femminile, se non sbaglio, più grande in Italia. Le Vallette conta 100 persone, 100 donne detenute. E si trova in stato di detenzione, la detenzione femminile, che quindi è anche tutto un discorso che va fatto rispetto alla condizione di marginalità di una popolazione che è già marginale, cioè la popolazione detenuta che è già marginale, ma la popolazione detenuta femminile sconta un livello di marginalità all'interno della marginalità. È una posizione in cui la detenzione assume nuove sfaccettature di deprivazione o anche di sofferenza, di varie cose di cui poi dopo andremo a parlare, e proprio questa marginalità nella marginalità lo rende un punto di vista di nuovo potente per ragionare intorno a cose, intorno al carcere, intorno alla reclusione. Oltretutto Nicoletta si trova in detenzione nel momento in cui scoppia anche all'interno del carcere la pandemia, e in cui il momento in cui la pandemia deve essere gestita, viene gestita in maniere insomma, che hanno prodotto anche dei risultati che ben conosciamo, che in questa regione poi ben conosciamo, le rivolte all'interno delle istituzioni, persone che si ribellano alla chiusura di colloqui, alla richiesta di distanziamento sociale all'interno di un'istituzione in cui non ci si può distanziare e che è sovraffollata. Oh, scusate, questa. E per cui le connessioni sono tante, anche perché poi Nicoletta in questa presentazione arriva a ragionare appunto in un orizzonte anticarcerario, in un orizzonte abolizionista, che è lo stesso su cui stiamo ragionando noi, ok? Quindi abbiamo pensato che fosse e che potesse essere interessante connettere questi discorsi, e quindi farlo attraverso la presentazione di questi libri e cercare delle connessioni che girano intorno alla questione di genere, alla questione della Covid come strumento e lente che dà come strumento di analisi e come elemento che radicalizza delle diciamo delle storture che erano preesistenti già, che però in quel momento si estremizzano e si radicalizzano e allo stesso tempo si rendono particolarmente evidenti, quindi diventa un momento che può essere particolarmente produttivo per ragionare ed essere ancora più radicali nel nostro andare a parlare e analizzare della deprivazione della libertà. Per cui proviamo questa presentazione di libri anche come un dialogo intorno a queste, appunto, a queste tematiche, e io per prima lascerei la parola a Nicoletta chiedendole appunto di raccontarci un po' questo libro, di raccontarci un po' la sua esperienza e quello che ha voglia di condividere con noi. Un attimo che faccio il cambio. Sì. Aspetta Nicoletta, aspetta che ancora non ti sentiamo. No! Aspetta. Ok. Pronto? Adesso ti sentiamo. Allora, risolti i problemi legati agli strumenti, dicevo che vorrei essere con voi anche per potervi vedere tutti. Comunque il mio abbraccio, il mio saluto è davvero sincero, anche perché mi conosco, anche perché al VAG sono venuta e quindi mi sembra un po' di tornare in famiglia. Allora, questo libretto, Fogli dal carcere, proprio perché sono fogli sparsi, sono i fogli di un diario reale, che poi a casa, su sollecitazione di Aldi Giuliani e di altri, ho poi accettato di mettere insieme e Red Star Press l'ha pubblicato. In realtà non ho cambiato nulla rispetto a quanto scrivevo in quei giorni del 2020. La mia detenzione iniziò il il 30 dicembre del 2019, per cui inaugurai il 2020 in carcere, ed ebbi modo di provare di persona quello che già del carcere pensavo, sapevo, e cioè che il carcere non ha altra funzione se non quella della vendetta del sistema, e quindi la funzione è puramente punitiva e vendicativa. Chi si illude o vuole raccontare che il carcere serve per recuperare, dice una grande menzogna. Il carcere non recupera non solo, non per mancanza di strumenti, ma per volontà precisa. La finalità del carcere non è quella del recupero di nessuno, non è certamente quella dell'aprire una strada diversa a chi in carcere lo subisce. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che in carcere vivono una non vita davvero gli ultimi di questa società così ingiusta. Il carcere è un mondo pieno di persone povere, di persone che hanno affrontato già la violenza dei viaggi per mare, sul territorio, dei rifiuti, oppure che comunque vivono l'emarginazione quotidiana nei campi rom. Le mie compagne, che ricordo sempre con affetto e con molte delle quali ho mantenuto dei rapporti, perché ecco, anche questo bisogna dire, che il carcere è un'esperienza che non ti togli di dosso. Nel male, nel senso dell'angoscia che tu trovi, ma anche nel bene dell'aver, ecco, se qualcosa il carcere serve è di svelare quello che sono le ingiustizie di questa società e di creare dei rapporti davvero fraterni, davvero sororali, direi, rispetto alle altre che con te subiscono questa prepotenza umana. E quindi le mie compagne, io le ho conosciute e ci siamo legate anche da sentimenti d'affetto, anche perché in carcere si sopravvive solo se esiste questo senso di socialità e di solidarietà che il carcere stesso, anziché favorire, cerca invece di demolire. Allora, il merito della solidarietà che nasce in carcere è puramente dei detenuti e delle detenute. È una realtà che neanche le prepotenze dei secondini, neanche le regole assolutamente non solo antidemocratiche, ma direi crudeli del carcere cercano di imporre. Nonostante tutto questo, ci si aiuta, e ci si aiuta senza smancerire, perché diventa un problema reale di sopravvivenza collettiva. E si conoscono anche tante storie, ho conosciuto le storie delle mie compagne, tante delle quali arrivavano dall'Africa e hanno finito in carcere perché avevano trovato, loro erano venuti a cercare dignità, lavoro, possibilità di vivere, e avevano trovato come unica prospettiva quella magari di fare il carriere della droga. Alcuni di loro avevano girato anche vari paesi d'Europa portando nel proprio ventre questi alberi della droga con il rischio quotidiano della loro vita. Per un tozzo di pane con un pericolo infinito che pagavano loro l'ultimo anello debole della catena, quello che invece i loro sfruttatori non avrebbero mai pagato, perché la cosiddetta giustizia si accanisce sull'ultimo e sul più deboli, è debole con i forti e fortissima e crudele con i deboli. Questo libro l'ho scritto anche per rispondere una promessa che ho fatto alle mie compagne, perché loro me l'hanno chiesto. Quando esci, io non sono stata molto, c'erano persone che erano in carcere già da anni e avrebbero continuato ad essere in carcere per anni. E io sono stata, beh, avevo un anno di detenzione, 3 mesi della quale ho vissuto in carcere, proprio all'inizio del 2020, gli anni di inizio della pandemia. E quando sono uscita, io ho fatto una promessa a loro, che avrei parlato di loro, che avrei detto qual era la condizione reale del carcere, e mi sarei battuta per il resto, con le forze che mi restano, per il resto della mia vita, proprio contro il carcere, come contro il CPL. Io ricordo, rispetto a questa, un'altra lotta grande che abbiamo fatto in passato, ed era la lotta contro i manicomi. Ecco, diciamo che anche allora si trovavano tante resistenze, gente che diceva non volevo matti per strada, questa cosa me la ricordo e non la dimenticherò. La stessa cosa vale per le carceri, e cioè non si vogliono, qui me lo dicono, delinquenti per strada. Questa cosa è diventata reale proprio nelle parole, proprio nel periodo della pandemia, quando sembrava che potessero essere messe in pista alcuni provvedimenti, soprattutto per chi aveva delle detenzioni belle, era fine pena o comunque non aveva delle grandi restrizioni, di poter uscire, o comunque di poter uscire temporaneamente per chi era malato. E noi sentivamo dalla TV queste proposte, molte si erano anche illuse di poter utilizzare questa possibilità. Ci fecero anche compilare delle richieste che poi rimasero completamente inevase, tranne che per una sezione, la terza sezione di 53 persone, e in quel periodo per queste questioni riuscirono ad uscire in 3, e tutte le altre rimasero invece in carcere, pur avendo anche loro la possibilità di estremi per poter uscire. Alcune di loro, per esempio, rimasero in carcere perché non sapevano dove andare uscendo dal carcere. Anche questo è un grande problema, che neanche le possibilità, le richieste, no, di condono almeno parziale, molte non riescono a farle, non perché non avrebbero gli estremi per poterlo fare, ma perché non hanno gli strumenti per vivere fuori, non hanno chi li accoglie, non hanno lavoro, e quindi devono stare fino all'ultimo giorno a subire la vendetta di Stato che è in carcere. Mi sa che... Un cambio? Sì. Finito. Adesso facciamo... No, mi sa che sta... Stiamo parlando. Aspetta, proviamo. Nicoletta? Nicoletta, è che qua abbiamo un problema, nel senso che quando parliamo noi... Non riusciamo a sentire te nemmeno dal computer, vero? Ok. Quindi dobbiamo fare e quindi adesso noi non riusciamo a sentirti. Però volevo, non so, mi sembrava che fossi arrivata a un punto e volevo provare a riprendere alcuni degli spunti che hai portato, che erano tantissimi ed erano ricchissimi, e appunto il carcere che contiene la povertà più che la delinquenza, il carcere in cui le persone che ci sono hanno anche dei problemi poi dopo per riuscire ad avere delle risorse delle risorse fuori nel momento dell'uscita, e questa solidarietà forte di cui parlavi all'interno, no? E anche l'esigenza forte di raccontare quella che è stata l'esperienza all'interno del carcere. E siccome io mi chiedevo se ti va, Francesca, di metterti in dialogo con Nicoletta rispetto ad alcuni punti. Nicoletta prima, quando parlavamo, mi diceva che avrebbe anche avuto piacere ad avere un dialogo su questi aspetti e magari su altri, quindi se vogliamo provare a fare, diciamo, a metterci in dialogo cercando di gestire un po' questi problemi, problemi tecnici che comunque non ci fermeranno. Quindi magari adesso arrivano anche questo per Nicoletta, ti sto guardando, degli altri spunti anche da Francesca. Grazie. Grazie Giulia, grazie a tutte, tutti, tutto per essere qui. E, è un onore essere in dialogo con Nicoletta, che non so se mi può vedere. Vedi Nicoletta? Volevo salutarti. Ciao. Ci dispiace tantissimo di non averti qui, ma siamo comunque felicissime che ci sei, anche a distanza. Ti volevo dire che insomma è un piacere, un onore essere in dialogo con te. Ho letto il tuo libro con avidità e lo trovo potentissimo, e ti mando tutta la mia solidarietà per tutti gli attacchi e la criminalizzazione che stai subendo. Insomma, siamo con te e ti stimiamo tantissimo per il tuo coraggio, quindi grazie. E... gli applausi li sente? E ci sono applausi? Sì, sì, sì. Spero che puoi sentire l'applausi, c'è stata una sala che ti ha applaudito tantissimo, siamo tutte e tutti con te, e forza Nicoletta, veramente. E, insomma, detto questo, io ho letto il libro di Nicoletta, che è bellissimo, consiglio a tutti di leggerlo, è veramente un libro potentissimo, con un sacco di spunti, un sacco di connessioni. Ovviamente è un libro che parte a partire da lei, dalla sua esperienza del carcere, che ha raccontato appunto brevemente, ha dato degli sprazzi, e che mostra chiaramente, rivela, no, la violenza del carcere, che poi appunto è anche la violenza di tutte le strutture detentive, inclusi i CPR, gli hotspot, le strutture idonee a luoghi di detenzione, questo arcipelago concentrazionario che è disperso per tutto il territorio, che parla di come nel periodo della sindemia questa violenza è diventata particolarmente, no, forte, violenta, evidente, no, in un momento ovviamente di crisi generale in cui le persone che stavano dentro questi luoghi sono state completamente dimenticate. Questo vale sia per il carcere, ma vale ovviamente anche per i CPR, no? Dove c'è stata già una costante invisibilizzazione, che è diventata ancora più forte nel momento in cui è scoppiato il Covid. E ci sono tanti spunti del testo di Nicoletta, potrei stare ore a farle domande e confrontarmi con lei. Secondo me una delle cose più belle, più potente nella mia interpretazione del suo testo, che è ovviamente un testo abolizionista, che rivendica appunto l'abolizione del carcere in maniera chiara, netta, forte, è un testo che secondo me appunto la potenza della proposta abolizionista che porta sta anche nel fatto che Nicoletta entra come una prigioniera politica, ovviamente, no? Criminalizzata per il suo impegno politico. Ma nel suo testo lei mette chiaramente in evidenza come tra lei e le compagne di incarcerazione, che sono le donne che appunto menzionava, no, di cui in qualche modo racconta, non c'è una differenza. E secondo me questo è molto importante. Molto importante perché? Perché riflettevo giorni fa con delle compagne di un movimento di sopravvissute al carcere in Brasile, che si chiama Por Nós, cioè per noi, la cui rivendicazione chiave è che il carcere, tutto il carcere è politico, E secondo me questa è una cosa importante da affermare con forza. Tutto il carcere è politico perché? Perché l'incarcerazione in sé, la costruzione del soggetto criminale, del soggetto delinquente, del soggetto deviante in qualche modo, è un processo politico. È quello che le abolizioniste afroamericane come l'Angela Davis, la Ruth Wilson Gilmore e tante altre da anni appunto hanno messo al centro della loro critica al sistema carcerario, che è proprio la costruzione dell'incarcerazione, no? E del soggetto criminale come un processo politico, come un processo intenzionale, come un processo che è disegnato, no? Come diceva Nicoletta. Questo mi sembra importante. E questo mi sembra importante appunto anche perché si lega poi anche a quello che è un po', diciamo, le riflessioni nel nostro libro, in cui ci spostiamo sulla questione del regime di frontiera, della violenza del regime di frontiera, e cui fondamentalmente appunto quello che diciamo soprattutto alla fine, nella parte insomma delle conclusioni, è come per noi appunto questo testo è un invito appunto a una riflessione, a un dialogo, a una costruzione comune di un processo e di un progetto abolizionista che abbia al centro quello di ripristinare il diritto a respirare liberamente per tutte le persone soffocate non solo dal Covid ma anche e soprattutto dalle varie sindemie del nostro tempo, appunto dovuta a colonialismo, razzismo, capitalismo estrattivo, genocidio, sfruttamento e esposizione a morte prematura. E ovviamente i CPR, dove appunto finiscono le persone che sono illegalizzate, che quindi sono prodotte come illegali, perché è una produzione disegnata politicamente e quindi intenzionale, sono appunto persone che sono soffocate. Se ascoltiamo le loro narrazioni e le loro testimonianze, ci parlano molto spesso di questa sensazione anche fisica, no? di compressione al torace, di soffocamento, di mancanza d'aria, di mancanza di respiro, no? E quindi appunto in questo senso, diciamo, nel libro c'è una bellissima prefazione di Sharam Khosravi, che è appunto un antropologo che vive a Stoccolma, iraniano, ma che è anche una persona che ha vissuto direttamente sulla pelle la violenza dei confini, dove appunto lui mette assieme, no, queste, diciamo, esperienze e parla proprio di questa politica del soffocamento, no, come un'esperienza che sicuramente, diciamo, è stata molto presente nelle narrazioni di quello che è stato, no, l'effetto del Covid, ma che è un'esperienza appunto che ha a che fare anche con una violenza di appunto strutturale, una violenza sistemica, una violenza di Stato che agisce su determinati corpi razzializzati, genderizzati, no? E marcati anche da linee di classe. E ovviamente ci rimanda a quello che è successo negli Stati Uniti, al Black Lives Matter, ma appunto ci rimanda anche alle esperienze quotidiane delle persone in questi luoghi. Prima di ripassare magari a Nicoletta, dico solo un'altra cosa rispetto al fatto che per noi è molto importante appunto il libro, questo libro è stato per noi dedicato alle tante persone appunto che sono vittime della detenzione, mentre parliamo appunto persone vengono detenute, persone muoiono di detenzione, perché di detenzione come di carcere si muore. E oggi guardavo i dati, mi confrontavo con i miei compagni, però solo dal 2019 ad oggi, cioè nel periodo della pandemia solo, cioè quindi dal 2020 ad oggi, sono morti di CPR ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persone. Voglio dire nomi perché appunto mi sembra anche importante contrastare una politica di invisibilizzazione di questi morti, per cui appunto voglio ricordarle con voi: Ayman Mekni, morto nel CPR di Caltanissetta nel 2020, Vakhtang Enuktize, morto nel CPR di Gradisca nel gennaio del 2020, Orges Turija, morto a Gradisca nel luglio del 2020, Moussa Valdè, a cui in particolare abbiamo dedicato il libro perché mentre lo stavamo finendo appunto è morto nel CPR di Torino nel maggio 2021, Wissem Ben Abdel Latif nel novembre del 2021, morto dopo essere trasportato in contenzione dal CPR di Ponte Galeria al San Camillo, e Zadina Nani, morto nel dicembre del 2021 a Gradisca, Arshad Jahangir, morto nel settembre 2022 a Gradisca. altre due persone, Harry e Faisal Ossai, erano morte nel 2019, nell'estate del 2019. Molte altre sono morte negli anni, c'è stata anche un'inchiesta morti di CIE che nel 2015 contava circa 25 morti, di quelle che riusciamo a ricostruire, no? Penso che sarebbe importante anche per un progetto, insomma, politico allargato, veramente ricostruire una memoria di tutte queste morti, no? Di CPR di cui poco si sa e poco si parla. E magari finisco, non so, tu vuoi dopo ti dico qualcosa oppure finisco qui? Perché volevo leggere un contributo del libro che è il più bello, secondo me, a cui tengo particolarmente, che è un contributo di un compagno che è stato detenuto varie volte nel CPR di Ponte Galeria e che scrive questa bellissima poesia che si chiama L'Aquila. E dice: l'aquila rappresenta me stesso, chiuso in una gabbia di cemento e ferro. Ma l'aquila può essere imprigionata solo fisicamente, perché la sua anima resterà libera di sognare al di là di ogni barriera. Un'altra volta, all'improvviso, le mie ali si sono spezzate, e un'altra volta sono atterrato in questa gabbia di cemento e ferro. Già a lungo in questo luogo ero stato e avevo preparato le mie ali per il volo libero, un volo in alto, nell'immenso cielo. Ma dimenticato avevo che prima di volare lontano andar dovevo adagio nel libero cielo. Che posso fare se mi piace il volo libero? Che posso fare se mi piace alzarmi troppo in alto? Sono un sognatore, sono un'aquila che non può stare in gabbia, sono un'aquila che non può volare con le sue ali spezzate, sono un'aquila che vede solo il giorno della libertà, quel giorno che sanate le ferite potrà tuffarsi ancora nell'aperto cielo. E volerà in alto con gioia finché non le capiterà un'altra sventura che le farà toccare terra. Ma non smetterò di sognare, perché la mia anima non può essere imprigionata, perché la mia mente che vola non può essere imprigionata. Soffrirò con il mio corpo in questi pochi metri condivisi con altri compagni di sventura, ma queste sbarre non riusciranno a catturare tutto di me, mai potranno imprigionare la mia mente, né alcuna legge potrà imprigionare i miei sogni. Di Sanji Gukuluk. Grazie, grazie Francesca. E io sto facendo un piccolo cambio di programma, cercando di aggiustare un po' questi problemi tecnici e cercando di mettere anche in dialogo Nicoletta con gli interventi. E qui Nicoletta, volevo chiederti e volevo ridarti la parola dopo questo intervento di Francesca, anche perché anche qui gli spunti sono tanti, no? Io quello che vorrei chiederti è magari anche di raccontare pure, non lo so, la materialità. Tu hai parlato di solidarietà all'interno, no? Della tua volontà di raccontare il carcere dopo aver vissuto quell'esperienza. Francesca sottolineava il fatto di arrivare all'interno di questa detenzione da politica, e a me quello che sempre mi sembra importante sottolineare è anche come subire un'esperienza carceraria poi dopo ti porti a voler indirizzare la tua attività politica anche sul carcerario, perché quando lo vai a conoscere lo esperisci quella condizione materiale e simbolica, ma anche incredibilmente materiale, di quello vuoi fare anche il centro della politica. Quindi io volevo chiederti se ti andava anche di continuando, diciamo, su quello che dicevi e prendendo gli spunti che offriva Francesca, di raccontarci anche la quotidianità, no? Detentiva, anche appunto per chi questa quotidianità non la conosce. Noi come Antigone entriamo all'interno delle sezioni, che chiaramente non è la stessa cosa che starci, ma una delle questioni del carcere è che penso non ci si renda conto bene di che cosa significa deprivazione della libertà, e anche materialmente quanto diventa pervasivo quel meccanismo di controllo, no? Che si ha all'interno, e poi anche quanto può essere potente, e come può esprimersi questa solidarietà di cui parlava Nicoletta. E mi piacerebbe anche qua che si creasse, diciamo, un collegamento su questa, diciamo, questa comunanza di condizione che è la deprivazione appunto della libertà, che riguarda tanto chi è trattenuto, chi è detenuto in carcere, tanto chi è trattenuto nei CPR, no? Questo nucleo forte di utilizzo materiale e simbolico di un potere di escludere temporaneamente delle persone dalla società, no? E come cercare di osservarlo dall'interno, con tutti i suoi paradossi, tutte le sue storture, possa essere utile per andare a ragionare effettivamente su quelle che sono le funzioni reali, no? Al di là del, diciamo, del potere simbolico che ha questo strumento, quali sono le funzioni reali e gli obiettivi anche disattesi ma raccontati, che possono diventare uno strumento forte per la costruzione appunto di una critica radicale a queste istituzioni. Quindi io rilascerei adesso, ti chiedo un attimo, perché facciamo il cambio di microfono, e ti ripasserei la parola, Nicoletta. Grazie. Sì, mi sentite? Sì. Allora, i problemi posti sul tappeto sono davvero tanti. L'intervento che ho sentito è stato un bellissimo intervento. Ringrazio per la solidarietà, e la solidarietà è importante, anche la forza che dentro e fuori del carcere è ceduta sicuramente ad andare avanti. I CPR sono il buco nero nel buco nero del carcere, perché è l'irrazionalità totale e la mancanza di umanità totale, prima di tutto è proprio nel CPR che si esercita. Sono anche un luogo ancora più dimenticato del carcere, nessuno mai ne parla, coloro che se ne prendono cura lo fanno spesso in un silenzio di pietra, e questo è sicuramente una cosa non solo da condannare ma tenere presente. Io penso che non si possa vivere serenamente libero se la libertà non è collettiva. L'ho provato anche quando sono uscita dal carcere. Aspettavo quel giorno di poter uscire, però è stato un giorno amaro, perché il mese che avevo passato con le mie compagne mi hanno fatto capire che tutte quante avrebbero dovuto poter uscire se il sistema non fosse così repressivo. Quando sono uscita credevo di provare gioia, e l'ho provata poca, mi mancava qualcosa, mi mancava la dimensione appunto di una realtà collettiva che il carcere avrebbe provato. Non si può essere liberi da soli, come non si può stare bene da soli. La libertà è una dimensione collettiva, e chi non ce l'ha non deve essere lasciato solo, non solo, non tanto per questioni di solidarietà astratta, ma proprio perché siamo tutti meno liberi fin quando l'ultimo detenuto sarà ancora in catene. Questo è un dato di fatto, non è soltanto un slogan, è un qualcosa che provi, perché dall'interno del carcere provi l'ingiustizia del carcere, l'irrazionale ingiustizia del carcere, provi la violenza, la prepotenza, provi anche l'abbruttimento, che non è dei detenuti, è dei secondini. Cioè queste persone che sono quelle che da anni sono di dentro diventano pietra, quelle giovani noi le vedevamo arrivare come se fossero andate, dovevamo passare nel cortile prima di salire la scala che portava alla sezione femminile e se ne andavano tranquillamente chiacchierando tranquillamente come se andassero in ufficio al lavoro quotidiano da qualche altra parte. E quindi si comportavano, soprattutto i giovani, con una freddezza, no? Come se davanti non avessero persone, ma degli strumenti, delle cose da mettere in ordine, delle cose su cui esercitare una prepotenza che è la prepotenza del sistema, che spesso viene condita anche dalla prepotenza personale. Quindi i detenuti sono anche quelli su cui si può sfogare impunemente le proprie questioni, i propri malumori, eccetera, eccetera. Ci sono delle regole restrittive in carcere. Ebbene, anche queste possono essere violate a capocchia dai secondini e dalle guardie carcerarie. Quindi non sai mai se quella cosa che ti viene in frusta sarà ancora la stessa domani, oppure se sarà cambiata, oppure se il fatto che tu la rispetti non diventi l'ennesimo elemento per tormentarti. Allora, che carcere, davvero, io non, ma fin dal primo giorno non ho mai provato differenza tra quella che era la mia detenzione politica e la detenzione delle altre mie sorelle detenute. Proprio perché lì dentro le differenze non esistono, si annullano. Ve l'ho detto, ho trovato tante persone povere, gente che era in carcere, che si faceva 3 anni di carcere per aver magari, per essere entrata in un supermercato, aver cercato di portare via qualcosa e adesso si è ribellata alla guardia che la fermava. E quindi da semplice furto la cosa diventava rapina e quindi anche 3 anni di carcere magari per 4 cose prese in un supermercato. Altre, c'erano anche delle persone, una in particolare che era stata accusata di aver ucciso il marito, accusa che lei non ha mai accettato. Comunque la storia di questa persona è una storia tragica. Lei, bambina di 14 anni, data in sposa per denaro, per 500.000 lire, erano ancora dalla madre, la quale aveva altri 8 figli, anche lei si arrangiava a vivere come poteva. Aveva subito la violenza di un marito che aveva 40 anni su di lei, che la sfruttava, che l'aveva messa sul marciapiede, e lei a un certo punto si è ribellata, aveva anche avuto delle figlie, e il marito minacciava lei e anche le figlie, perché anche le figlie avrebbero dovuto seguire la strada che lui aveva imposto alla madre. Alla fine lei lo denunciò, fu messo in carcere, e i servizi sociali volevano portare due bambini. E quindi lei che cosa ha fatto? Ha ritirato la denuncia. E quest'anno l'ha sfruttata per tutta la vita, finché alla fine, per qualche circostanza, se n'è andata all'altro mondo. Allora lei era in carcere a subire una condanna pesantissima. Cercava, non aveva nessuno che l'aiutava, faceva dei lavoretti all'interno del carcere, anche lì, di questo vorrei anche parlare, chi c'è in carcere, come si sta in carcere, perché che cosa significa lavorare in carcere, che cos'è lo sfruttamento, comunque doveva finire questa scuola. E lei è una donna mite, che cercava di gentile con tutti, insomma questa sua storia, lei aveva anche tentato più volte di chiedere la grazia, una grazia che non mi era mai stata concessa, e sono in carcere ancora adesso, quindi lei vivrà fino alla fine della sua vita in una situazione assolutamente indicibile. E poi altre situazioni, ci sono le sinte sono gli rom per intesi, molte di loro anche finiscono in carcere perché si abbassano delle colpe che non sono loro, sono magari dei familiari, i quali però se stanno fuori riescono a tirare avanti le famiglie numerose, ci sono vere e proprie collettività. E quindi c'è tanto dolore all'interno del carcere. Io non ho trovato dei detenuti cosiddetti eccellenti. Il carcere è davvero l'armadio in cui questo sistema ingiusto, violento, che è il capitalismo, nasconde gli scheletri dei propri assassini. Per cui questa è la verità del carcere. Mi dicevo, il lavoro in carcere, ci sono dei lavoretti, tra l'altro nella parte femminile tutto finisce in una, c'è la scopina, e cioè quella che viene a pulire il corridoio, c'è la concellina, e cioè la tua compagna di cella, le celle tra l'altro sono questo stanzino di 2 metri per 3 dove ci sono 2 letti a castello, dove c'è un tavolino attaccato al muro, dove ci sono 2 scatelli e 4 armadietti per metterci le tue cose. Poi c'è un muro che divide da quello che dovrebbe essere il bagno, l'acqua freddissima d'estate e d'inverno, il cosiddetto bidet che serve da frigo, ecco, i frigoriferi non esistono nelle sezioni, per cui il frigorifero è lo spazio tra l'inferriate e le reti che sono messe in sovrappiù oltre all'inferriate, proprio per cercare di sigillare la vita delle persone in modo tale che non si possano anche vedere un piccolo spazio di cielo libero. Lì, tra l'inferriato e la rete, si mettono le cose deperibili che si comprano per chi può, però poi che cosa fai? Tu compri per te, compri anche per gli altri che non possono. Si comprano le cose che il carcere direttamente ti vende a prezzi strabilianti. Sono roba di discount che però ti vengono fatti pagare al prezzo del carcere. Questa cosa divenne drammatica proprio al tempo quando iniziò il periodo della pandemia. Un altro momento tremendo, perché dal primo di marzo non furono più concessi colloqui con i parenti. Il colloquio con i parenti sono essenziali, è un'ora di colloquio alla settimana. Molte non riescono neanche ad averlo perché magari i parenti sono lontani. Io avevo mio marito Silvano che veniva a trovarmi tutte le settimane, e comunque era un momento per avere qualche notizia da casa, del mondo fuori, ma era anche un momento in cui i parenti ti portavano le cose di cui avevi bisogno. Naturalmente cibo, tutto quanto impacchettato, tagliato a fette sottili in modo tale che il pacchetto fosse trasparente, ti portavano se avevi bisogno di vestiario però particolare, per esempio tute senza stringhe, scarpe senza stringhe, che poi magari non andavano bene, venivano fatte cambiare 2 o 3 volte, ma soprattutto cibo. Nel momento della pandemia venne negata la possibilità di colloqui e anche di ricevere cibo dall'esterno, sia direttamente dai parenti, sia indirettamente attraverso i pacchi. E questo che cosa comportò? Che aumentarono enormemente gli affari dello spaccio del carcere. Anche lì i prodotti venivano da fuori. Però erano quelli che il carcere ti passava a pagamento e che ti pagavi profumatamente. Quindi cercavo anche di fare un piccolo sciopero della richiesta del cibo dall'esterno. E che quello che mangiavi dentro era una schifezza. Io poi sono vegetariana e quindi non mangiavo quasi niente perché non ho contemplata questa cosa. Ma anche chi non è vegetariano mangia roba che spesso è ammaliata, roba che non funziona, che non è. Quindi un'altra cosa da dire è che tutti pensano che il carcere sia un luogo dove uno è mantenuto gratis. Non è vero, perché quello, quel poco che hai, cioè acqua fredda, tre docce per 53 persone in una sezione, quindi le detenute nel periodo in cui c'ero io erano sulle 130 nel blocco femminile, diviso in tre piani, e io ero nella terza sezione, eravamo 53, c'erano tre docce che funzionavano malamente, andavano regolate dai lavandini che si trovavano nello stesso locale perché non potevi regolare direttamente la doccia. Non è, diciamo che gli scogli non erano mai puliti e quindi tu camminavi con il piede in 30 cm d'acqua, era anche l'acqua che, dei secchi con cui le detenute pulivano quotidianamente la cella, perché c'è una pulizia enorme e del resto è poco altro da fare se non tirare fuori e mettere dentro roba, le quattro cose che per avere negli armadi, pulire eccetera eccetera. Quindi tutto questo costa 110 euro al mese. In più, se vuoi farti lavare la roba, devi pagare. Se vuoi farti tagliare i capelli, devi pagare. Qualsiasi cosa si paga. E si paga profumatamente. Tanti non hanno davvero niente. E allora che cosa fanno? Se qualcuno permette loro di farlo, se riescono ad entrare nella graduatoria, allora magari ti fanno fare qualche piccolo lavoro. Il lavoro è pulire, per esempio, i locali pubblici, i locali delle guardie, perché ci sono anche gli alloggi delle guardie, oppure scendere sotto e fare, ecco, fare il lavoro di lavanderia. Comunque è un vero e proprio sfruttamento, perché chi veniva a pulire i locali prendeva 300 euro al mese e stava tutta la mattina a pulire, e di quei 300 euro venivano defalcati immediatamente i 110 euro al mese che si doveva pagare per la permanenza in carcere. A me la nota è arrivata soltanto pochi giorni fa, e mi è arrivata dall'ufficio delle imposte, ma che invece lavorava all'interno del carcere, che erano anche le più povere, dovevano privarsi anche di quei soldi mensilmente con cui avrebbero potuto comprarsi qualcosa di più. Lì si riesce a risolvere il problema soltanto perché collettivamente chi ha un po' di soldi, che magari la famiglia vuole mettere i soldi sul conto interno del carcere, usa anche questo poco che ha per darlo agli altri. E questo è un'altra cosa. L'altro problema è quello dei malati in carcere. Il carcere è pieno di gente malata. Gente malata, tanta tossicodipendenza, ci sono problemi psichiatrici, ci sono problemi di mobilità, c'è gente in sedia a rotelle in carcere, e non per rotture fatte in carcere, ma perché non può più camminare. C'è gente con tumori in carcere che non vengono curati. C'era un reparto, il cosiddetto sestante, per i malati psichiatrici, quindi il famoso ex OPG che dovrebbe essere abolito non è abolito affatto, cioè quello che era manicomio giudiziario esterno è stato portato all'interno del carcere. Per il maschile c'era questo settore che si chiamava sestante, che adesso è stato chiuso. Chiudo Giscuri è stato anche accusato di prepotenza e di violenza, perché questa gente veniva lasciata senza cuore nei propri strumenti, quindi una cosa stupenda. Naturalmente le cose non si sapevano. Ci sono i bambini in carcere, le donne una volta fino a tre mesi potevano tenerlo, adesso il periodo si è allungato. Ci sono bambini bellissimi che vivono con le loro madri la desolazione del carcere, quindi è un mondo di sfruttati, un mondo pieno di depressione, un mondo pieno di ingiustizia, che come dicevo si salva solo perché gli stessi reclusi gli stessi che subiscono violenza sono umani, tra di loro solidali. Ecco perché, quel che dicevo, non c'è differenza tra detenuto politico e cosiddetto detenuto comune, perché in carcere è un'ingiustizia enorme, desolante, contro la quale bisogna combattere. Combattere non è un elemento marginale, dovrebbe essere un elemento essenziale. E difatti, anche perché il modo per abolire il carcere c'è, della giustizia sociale. Il carcere è il segno più profondo, come il CPR oltretutto, in più il CPR ha proprio questa assoluta arbitrarietà, senza, non ti rinfacciano null'altro se non il fatto di essere in giro per il mondo a cercare dignità e non avere un pezzo di carta che ti permette di entrare in paese. Allora, la giustizia sociale richiede non soltanto parole, richiede fatti. E quindi fa parte di quel cambiamento radicale, di quell'abolizione dello Stato presente che diventa indispensabile per la sopravvivenza dell'essere umano, dell'ambiente, eccetera, eccetera. È un'ingiustizia rispetto a cui non si può vivere sereni. Chi non pensa che il carcere esiste o pensa che possa esistere, che in fondo bene o male ci libera, no, delle cosiddette zavorre dell'umanità, da questo dovrebbe provare che cos'è il carcere. E quindi per me è stata una scuola di vita. Ho visto concretamente quello che già pensavo, che già sapevo, e quindi non è soltanto un impegno in più nella mia vita, è semplicemente il completamento di quello che dovrebbe essere il minimo comune denominatore di tutti coloro che non decidono di arrendersi a questa ingiustizia che è la società in cui viviamo. E quindi sicuramente tutto questo va considerato, va ripetuto. Io spero che questo libretto minimo che ho scritto possa servire anche per far vedere un altro aspetto del carcere. Ho vissuto la pandemia in carcere e ho capito che così erano le rivolte all'interno del carcere. Da noi a Torino la rivolta non c'è stata semplicemente perché nel momento in cui nelle altre carceri cominciava la ribellione, che era una questione per la sopravvivenza, era l'istinto di sopravvivenza che ti spingeva a protestare. Perché? Perché mentre fuori tutti erano con prevenzioni, noi vivevamo all'interno del carcere con un sovraffollamento indicibile, senza la possibilità di avere quel minimo di servizi igienici fondamentali. Non potessero usare i disinfettanti, perché dicono che per i brevi, quindi al massimo uso il CIF per pulire le cose. Non c'erano, non parliamo delle mascherine. Non c'era colloquio con l'esterno, per cui trovi anche l'angoscia di pensare ai tuoi che magari fuori stavano male, magari stavano morendo. C'era una cosa in carcere, la televisione. La televisione che interessava in tutte le cellule, già di per sé strette, accesa, spenta naturalmente dalle guardie, che ci vomitava addosso il dramma del Covid. Io ricorderò sempre quel camion con le bare, il camion militare con le bare dei morti che venivano portati via dagli ospedali, le scene delle persone intubate che morivano lontani dai parenti, eccetera, eccetera. Non era certo un conforto vedere le persone sul balcone che finalmente conoscevano il vicino di casa, perché questo mondo, questa società che crea il carcere crea anche tanta solitudine fuori, improvvisamente quella solidarietà di Bacone e di Leone, che poi è finita in niente, come ben si sapeva, da noi la vedevamo e non era certo un confronto. Non sapevamo che cosa sarebbe capitato da un giorno all'altro, non avevamo notizie, sapevamo che ci hanno già malato all'interno del carcere. La gente arrivava dall'esterno, non erano i nostri parenti, ma erano le guardie, le quali andavano e venivano tranquillamente. E questo è stato quel periodo, e contro questo ci si difendeva anche tra di noi, no? Cercando di non drammatizzare troppo, cercando con le poche cose, non avevo neanche la possibilità di camminare in luoghi aperti, andavo allora ad Aria, che era anche stata ristretta in quelle stanzioni a cielo aperto, eccetera. Non c'era più la scuola, non si poteva più frequentare la biblioteca, non c'era più nessun contatto con il mondo esterno, se non tranne che la televisione, che incuteva davvero terrore. Eccoci. Grazie Nicoletta, grazie davvero. Adesso io ne vorrei cercare di riprendere alcuni degli spunti, una cosa difficilissima, però grazie per questo. Per questo sguardo che sei in grado di dare rispetto a quella che è l'esperienza carceraria. Allora Nicoletta ha parlato di lavoro all'interno del carcere e di come ci sia tutto un processo di infantilizzazione anche nella maniera in cui si chiamano, no? I lavori in carcere, la spesina, lo scopino, che sono tutte, o quando andiamo ci si dice che le detenute fanno dei lavoretti. Tutto un meccanismo di infantilizzazione. La questione del cibo, il fatto che non era più possibile durante la pandemia farsi portare il cibo con i pacchi, incontrare i parenti, ma anche questo aspetto materiale e la questione della comprare il cibo in carcere, quel sopravvitto e quanto costa comprare il cibo in carcere con il sopravvitto, la questione dei bambini. I malati in carcere, Nicoletta parlava dei malati in carcere, io ci tendrei a dire che la malattia viene creata dal carcere, cioè il carcere crea la malattia che poi dopo deve e pretende di curare. L'acqua fredda, no? O anche il fatto, ad esempio, adesso al carcere di Parma non ci sono i riscaldamenti, voi ve lo immaginate adesso di star senza riscaldamenti, le 3 docce per 53 persone, no? Ma questo non è una cosa, 3 docce per 53 persone non è una cosa che riguarda solo la sezione femminile di Torino, cioè è così, poi fortunati se le 3 docce funzionano. Insomma, perché parlare di carcere e di CPR insieme? Fatemi ritornare un attimo su questo punto prima di passare poi dopo la parola a Martina e a Valerio. La questione secondo me è la ragionare intorno a quelli che sono i discorsi, no? Costruiti intorno a queste istituzioni, i principi di legittimazione delle istituzioni. Allora il carcere si legittima sulla sua pretesa di cosa? Di rieducare, se vogliamo riferirci al dettato costituzionale, di risocializzare una persona, cioè di reinserirla all'interno della società, evitare che ritorni a delinquere, no? Quindi proteggere la società in questo modo. E allora lì la domanda è: ma come giustifichiamo l'esistenza del carcere di fronte a un racconto come quello che porta Nicoletta, no? Di fronte a un carcere che funziona in questa maniera? Di fronte a un carcere in cui la gente ci finisce, appunto. Non è un caso che Nicoletta abbia raccontato all'inizio vari episodi, la donna che finisce in carcere perché ha preso qualcosa al supermercato e ci rimane per 3 anni, no? Vicende con i servizi sociali, sono comunque storie di marginalità che finiscono in carcere. Dall'altro lato la funzione CPR, qual è la funzione CPR? Come si giustifica? Quello che dicevamo prima, no? CPR che si giustifica con la pretesa dell'espulsione. Ma poi dopo, io all'inizio ho detto, il Covid è potente perché durante la pandemia i confini sono chiusi, la gente non la puoi espellere, non la puoi mandare fuori, però sono diminuiti i numeri di chi stava in detenzione, no? Però della gente ha continuato ad essere in detenzione, della gente ha continuato ad entrare all'interno dei CPR. E allora tu come lo giustifichi, come lo legittimi, quella deprivazione della libertà? E allora un discorso abolizionista, un discorso radicale, ha bisogno di guardarle queste cose, ha bisogno di rilevarle, ha bisogno di dirle che il principio di legittimazione, quella forza simbolica di cui si ammanta l'istituzione, in realtà alla prova dei fatti non è così forte. La pandemia per quanto riguarda i CPR ci dà questo diciamo strumento particolarmente potente, però anche in generale le espulsioni riguardano non più del 50% delle persone che sono trattenute all'interno dei CPR, per cui l'altro 50% che viene trattenuto ma che non viene espulso, ma perché viene trattenuto? Cioè qual è la logica? Okay. E allora il principio di legittimazione, diciamo che è un binario che scorre parallelo rispetto al reale funzionamento dell'istituzione, perché chiamare una persona scopina o non permettergli di vedere i propri familiari, avere 6 colloqui al mese, essere in una situazione in cui appunto non hai riscaldamenti o magari non puoi farti la doccia, che cosa ha a che fare questo con la risocializzazione all'interno della società, con la reintegrazione, con il prevenire la recidiva? Okay. Sono questo tipo di domande che si devono fare, come secondo me diventa importantissimo unire le due questioni, CPR e carcere, perché una critica al CPR che è molto delicata e anche secondo me un po' pericolosa per la lotta abolizionista del carcere è dire che il CPR ci finisce gente che però non ha commesso nessun reato. Allora, questo è un argomento che è molto scivoloso e molto difficile, perché sottintende il fatto che allora in carcere invece ci finisce della gente con colpa perché ha commesso dei reati, ok? E invece non è nemmeno così, no? Perché non è esattamente così. Una questione importante da sottolineare e che Francesca sottolineava è come dei soggetti vengono costruiti dal potere, vengono costruiti dalla società, no? Come il fatto di essere migrante, persona migrante irregolare viene costruito, così come il fatto di essere persona detenuta è il prodotto stesso della società, no? Sì. Scusa se... Ti lascio la nota e poi lascio la parola a Martina e poi a Valeria. No, solo per dire, perché questa è una cosa importantissima, che tra l'altro nei CPR non ci finiscono solo i, diciamo, cosiddetti migranti, ma ci sono tantissime persone che in realtà sono nate e cresciute in Italia, ne ho conosciute tante, ma che sono semplicemente prodotte come illegali, perché in Italia, come tutte voi saprete, la cittadinanza no, è attribuita attraverso gli ius sanguini, cioè, quindi per il diritto di sangue, quindi se tu hai genitori stranieri ma nasci in Italia non sei considerato cittadino o cittadina italiana, no? Che è una grossissima battaglia che tanti si porta avanti da tempo, nonostante appunto io non è che mi rivendichi la cittadinanza come un principio particolarmente insomma importante per la mia lotta, però comunque è importante nella materialità della quotidianità. E quindi tantissime persone che io ho incontrato sono persone nate e cresciute in Italia, per cui magari io che appunto ho vissuto per tanti anni e continuo a vivere all'estero sono più migranti di loro, se vogliamo, e che però sono diciamo migrantizzate, no? E illegalizzate e quindi buttate in quei luoghi. Passa Martina. Sì, dico solo una cosa. E adesso appunto cercando di continuare a intrecciare il discorso su CPR e carcere, lasciamo appunto Martina che si concentra più su CPR e Valerio che poi invece parlerà più di carcere. Grazie mille Giulia e Nicoletta e Francesca, ovviamente quanto autrici di questi dei libri. E, io vorrei partire dallo spunto, dalla domanda di Giulia sulla funzione di queste istituzioni violente carcerarie, partendo proprio dall'importanza di ricostruire una genealogia abolizionista non schiacciata sul presente, anche per interrogarsi sul punto che dicevi tu, no? Su perché, e proprio andando a vedere le radici dell'abolizionismo sia schiavista che carcerario, che mi sembra interessante che questa funzione di produzione di subalternità emerge, no? Di cui ci parla Angela Davis prima di tutto, che è la prima a tracciare questo continuum tra l'istituzione della prigione e l'istituzione della schiavitù, o meglio la prigione come un'istituzione che ha reso possibile una transizione dalla schiavitù, dalla legittimazione della schiavitù a un'abolizione sulla carta ma non nella sostanza per quanto riguarda una subalternità socio-economica. E su questo penso che si possano intravedere delle connessioni molto nette anche con i regimi di gestione razzializzato della mobilità. E è proprio a partire da questo che mi interessa espandere, anche perché non lavoro sul carcere né sulla detenzione, quindi forse è anche una mossa come dire, di convenienza, però espandere il focus da questa connessione CPR-carcere a quello che può essere definito un continuum carcerario in cui si trovano intrappolate le persone che vengono definite e governate come migranti. E questo continuum è costituito da una serie di istituzioni, ma anche di spazi di confinamento, tra cui i campi dei rifugiati e gli hotspot. E chiaramente, per usare questo termine continuum carcerario, bisogna innanzitutto interrogarsi su cosa significa, no? L'incarcerazione al di là della detenzione, no? E per come avviene in alcune istituzioni come il CPR e la prigione, e su questo trovo utile riferirmi al lavoro di geografe femministe che definiscono il regime carcerario come un regime che previene lo sviluppo da parte delle persone che vi si trovano intrappolate del proprio futuro, no? Il proprio futuro viene locked, viene bloccato, e chiaramente avere bloccato il proprio futuro, la possibilità di pianificare il proprio futuro rende possibile tutta una serie di meccanismi di sfruttamento sia a livello di forza lavoro che di produzione di subalternità e di razzializzazione delle vite. E a partire da questo ragionamento, che da questo punto che mi sembra interessante fare riferimento al libro curato da Francesca, per interrogare su come la pandemia sia stato un momento, e lo diceva prima Giulia, sono assolutamente d'accordo, che ha messo in luce, no, e anche moltiplicato geografie e meccanismi di confinamento, e anche, si potrebbe dire, protratto, no, un sistema che all'inizio è stato, no, dichiarato di emergenza nel tempo, no, le cosiddette nave quarantena che sono durate 2 anni, l'uso di addirittura bus in Grecia, ad esempio, dove faccio in parte ricerca, per proteggere, no? Cioè, c'è sempre stata questa legittimazione umanitaria dietro. Però, a mio avviso, non è stato solo un protrarre questo regime di emergenza nel tempo, ma è stato anche un momento estremamente prolifico a livello politico, no, nella gestione dei meccanismi di confinamento, e in particolare nella connessione tra geografie di confinamento e istituzione di pratiche di confinamento che fino allora venivano agite dagli stati ma in modo informale, senza avere il beneplacito o comunque senza poter avere una giustificazione ufficiale. E ad esempio, per farvi un esempio concreto, la Grecia su questo è stata estremamente all'avanguardia nel saper usare il momento della pandemia e di questa pandemia protratta e discriminatoria per i richiedenti asilo, perché i richiedenti asilo in Grecia si sono trovati a un regime di confinamento negli hotspot e nei campi fino all'autunno del 2021, a fasi alterne. Però poi c'è stato anche un momento, che è quello attuale, in cui queste restrizioni sulla mobilità in parte sono state tolte, mantenendone alcune, ad esempio i coprifuochi di notte nei campi dalle 9, in alcuni campi dalle 10, in alcuni campi dalle 8, c'è sempre questa arbitrarietà, in alcuni momenti non c'è il coprifuoco, in altri momenti c'è, le persone non possono uscire. Quindi c'è stato un protrarre, no? un mantenere questo regime di emergenza, ma si sono anche consolidate pratiche che già avvenivano e che hanno a che vedere, come ho detto, con questa articolazione tra geografie di confinamento e meccanismi, no? Proprio pratiche di immobilizzazione delle persone. Ad esempio la cosiddetta finzione di non ingresso, e di cui non so se avete sentito parlare, è una designazione usata dalla Commissione Europea e inserita in questo nuovo EU Pact on Migration and Asylum, in cui appunto la Commissione Europea spinge paesi di frontiera come l'Italia e la Grecia a di fatto non effettuare la procedura di identificazione o comunque a non comunicarla, quindi a non condividere i dati con gli altri stati membri per i primi, cioè qui c'è un periodo che varia, perché poi in Grecia questo dovrebbe essere 5 giorni, in Grecia diventano 25 improvvisamente, chiaramente la decisione presa dalla Grecia stessa, vuol dire che in questi primi 25 giorni, che sono un lasso di tempo estremamente ampio se ci pensate, la stragrande maggioranza delle persone che arrivano sulle isole greche non vengono identificate, vengono trattenute in questo campo Covid, no? Di quarantena, dove ormai più non è questione di quarantena, è questione di decidere chi tra questi verrà respinto senza una procedura regolare, di fatto, per quanto possa essere regolare una procedura di espulsione, e quelli che verranno ammessi a formalizzare la domanda di asilo. Quindi la non identificazione diventa un modo per invisibilizzare no, quello che è anche uno strumento di lotta di molte migranti e migranti, no? Di non farsi identificare, diventa in realtà uno strumento per lo da parte dello Stato per non rendere possibile la tracciabilità per avvocati, no? Ad esempio per dimostrare le pratiche illegali da parte dello Stato greco, che in questo momento, il governo greco, che in questo momento, come avrete letto, sta effettuando pushback sistematici verso la Turchia. Il secondo esempio è quello del Regno Unito, dove, come anche in Italia, insomma, c'è stato un regime di confinamento protratto durante la pandemia, anche in questo caso sempre con una logica in cui l'umanitario, l'igienico sanitario e il securitario andavano ad intrecciarsi, quindi del confinare per proteggere, no? Per proteggere i cittadini dai migranti, ma anche i migranti dal virus. E questa geografia del confinamento, che ha fatto sì che le persone siano trovate in spazi estremamente affollati in alcune cittadine inglesi, no? Soprattutto sono state cominciate ad essere utilizzate in modo più sistematico di prima le caserme, no? E questa geografia del confinamento è stato un po' l'antecedente di una serie di riforme che in parte erano già in fase di programmazione, diciamo, della politica di asilo britannica, e che hanno portato a questa politica della inammissibility, politica misura dell'inammissibility alla legge, al diritto. Alla procedura di asilo, quindi basata su anche questa, su una specifica geografia, ovvero le persone che arrivano da Calais con le imbarcazioni teoricamente possono essere escluse dalla procedura di asilo on the spot, cioè per il semplice fatto di provenire con le imbarcazioni e non con l'aereo da Calais o comunque dalla Francia. Simili meccanismi sono stati adottati infatti anche in Grecia. A giugno 2021 la Grecia dichiara la Turchia paese sicuro per persone provenienti da 5 paesi, Afghanistan, Siria, Pakistan, Somalia e Bangladesh, che possono, queste persone di queste nazionalità possono essere dichiarate inammissibili alla procedura di asilo. Quindi secondo me quello che è interessante è notare come la pandemia non ha solo messo in luce, ma anche proprio è stata produttrice di nuovi meccanismi di confinamento, e dove è anche stato però evidente, cioè questo lo si può vedere solo nel post pandemia, come le restrizioni sulla mobilità sono solo una parte della storia, no? O comunque del funzionamento di questo continuum carcerario, che ha molto a che vedere su questo. Mi sembra che l'intervento di Nicoletta sia stato estremamente importante su questa insistenza, no? Sul cibo, le condizioni igieniche, il lavoro, quindi di presa sulle vite, a cui si riferisce anche Sharam nella prefazione al libro curata Francesca, no? Di I cannot breathe, no? Di soffocamento e di quello che Sharam Khosravi, questo antropologo, definisce come the stolen time of migration, il tempo rubato, no? Il fatto che alle persone viene rubato tempo, e non viene rubato tempo solo nelle carceri o nelle detenzioni, ma anche nei campi. E il continuum, no? Questa continuità tra meccanismo umanitario di gestione delle vite e meccanismo punitivo, prettamente punitivo, credo sia importante perché sottolinearlo, proprio perché ci fa anche in parte spostare l'accento da un focus esclusivo su mobilità e immobilizzazione verso un'analisi sulle condizioni di o meglio sull'impossibilità di una riproduzione sociale autonoma anche nei campi, cioè nei campi in Grecia, e questa è stata una misura adottata durante la pandemia, le persone non hanno diritto a cucinarsi cibo nel nome della loro stessa sicurezza, cioè non viene, per quanto hanno diritto ad uscire e andarsi a comprare cibo al supermercato, intanto molti vengono bloccati, c'era un stop and search da parte della polizia, in maniera estremamente arbitraria gli viene negata la possibilità di portare cibo proprio nei campi e tantomeno di cucinarlo, e la sicurezza qui sarebbe giustificata nel nome della prevenzione di eventuali incendi. Quindi questo è il modo in cui i richiedenti asilo hanno articolato le loro lotte, i loro claims su queste problemi estremamente puntuali, il cibo, le condizioni igieniche, l'impossibilità di svolgere queste attività di riproduzione sociale in modo autonomo, credo che mettano proprio in visibilità questo aspetto. Quindi in Grecia nell'autunno 2021 ci sono state cicli di mobilitazione, di lotte in più campi in Grecia, che sono scaturiti dal fatto che le autorità greche improvvisamente non davano più cibo, non fornivano più cibo nei campi, e quindi c'è stata questa hunger strike, no? Crisi della fame nei campi, e i richiedenti asilo ovviamente si sono mobilitati dicendo vogliamo cibo, ma non vogliamo semplicemente cibo, vogliamo cibo commestibile. Quindi la protesta è stata consistita anche nel bloccare camion carichi di provviste che a un certo punto hanno cominciato a tornare nei campi, ma era cibo avariato o comunque non commestibile. E insieme a quel claim, a quella richiesta, hanno articolato altre richieste, o meglio hanno asserito il loro diritto, ad esempio, a un'educazione per i bambini nei campi, perché durante il Covid c'è stato una ostruzione, no? Nella possibilità di accedere alle scuole, ma anche accesso a diritto alla mobilità e ai trasporti pubblici. E quindi vado verso la conclusione, parlando della seconda, cioè ritornando al punto di partenza sulla prospettiva abolizionista, che a mio avviso è interessante collegare, cioè proponendo un abolizionismo dei meccanismi di confinamento che va oltre, che non significa abolizionismo necessariamente dei confini in quanto tale, nel senso, su questo è secondo me uno dei temi, no, del dibattito attuale, sia a livello, no, così, più universitario che attivista, ma dei meccanismi di confinamento che sono eterogenei e che riguardano anche una presa sulle vite di tipo umanitario e che chiaramente si iscrivono in questo continuum di lotte, ma anche di critiche all'istituzione carceraria, CPR, e credo sia estremamente rilevante che nella conclusione del libro Francesca e gli altri autori abbiano fatto riferimento all'opera di Franco Basaglia per sottolineare questa genealogia, ma anche come certe parole d'ordine debbano tornino nella critica, nel tipo di articolazione della critica all'istituzione, o meglio della critica anche alle pratiche di produzione di subalternità. E Basaglia, appunto, in questo libro crimini di pace che trovo estremamente produttivo per ripensare una critica abolizionista, parla della necessità di passare da un'indignazione emotiva, no, della violenza, a una trasformazione radicale delle istituzioni che non si basi esclusivamente su una riorganizzazione dei bisogni, ma su una risposta a determinate necessità e ingiustizie sociali. E su questo, è per questo, cioè, penso che una analisi storica sia essenziale. Qui appunto mi riferivo all'inizio al lavoro di Angela Davis, e Angela Davis nella sua critica alle prigioni insiste sul fatto che l'abolizione della prigione non si può limitare a un movimento destituente, no, di tearing down, quindi di abbattere, ma anche di building up, di costruire contro istituzioni, contro poteri, e questo credo sia anche l'interrogazione da farsi rispetto ai meccanismi di confinamento, di che tipo di società che va ben oltre il momento, no, in cui le persone vengono bloccate al confine, ci vogliamo immaginare, a partire da, come diceva Giulia, da questa critica alla politica della, ciò che Ruth Gilmore definiva la politica della white innocence, dell'innocenza bianca, che riproduce gerarchie di razzializzazione o di punizioni giustificate, appunto in questo caso tra i migranti che non hanno commesso crimini e coloro che sono colpevoli di un crimine. Quindi mi sembra, vorrei lanciare la domanda: che cosa una pratica abolizionista e una teoria abolizionista può significare tenendo conto di questo continuum carcerario? Grazie mille. Grazie mille. E adesso passo la parola a Valerio e poi dopo apriamo le domande al pubblico. E, passando la parola a Valerio, ci tenevo anche a rimarcare quanto, che è una cosa che ho dato per scontato all'inizio e non ho detto, quanto sia importante per noi, come Antigone, anche fare avere questi incontri e organizzare insieme questi eventi. Il insieme. Secondo? È il secondo che abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo fatto poco tempo fa, sempre con Antigone, sì, quando sì. C'è state le rivolte a Modena. Sì, certo. No, però ecco, volevo approfittare per ringraziare e dire quanto ci faccia piacere. Quindi, grazie Valerio. Più che un piacere, credo che sia una necessità, perché c'è assolutamente bisogno di parlare di carcere e di luoghi di detenzione, di istituzioni totali. È troppo tempo che chi si occupa con le nostre idee, con le nostre logiche, queste tematiche, riesce a esprimere una voce molto flebile, insomma, che non attecchisce anche a livello culturale, non soltanto diciamo nell'azione politica e sociale, ma anche a livello culturale, costruendosi uno spazio. E la narrazione dominante è quella che da molto tempo a questa parte, che non è una cosa che è nata oggi, è quella basata sulle logiche securitarie, basata su quello che ormai si può definire un populismo penale. Perché è una domanda che è giusto farsi: perché si vive in queste condizioni dentro i carceri, dentro i CPR, come si diceva prima, nei CI, nei CPT, insomma, che tutto. Quindi ci sta molto una discussione come quella che Antigone ha organizzato questa sera, di tenere insieme appunto luoghi di detenzione differenti, dove è difficile capire dove si stia peggio, al di là delle persone che sono contenute in questi luoghi. Perché è vero, cioè, dice, forse farsi la domanda, i CPT, CPR ora, o CIE nel periodo intermedio, a volte si dice custodiscono delle persone che non hanno commesso reati, e quindi dando per scontato che nel carcere dicevano quelli che è giusto che stiano in galera. Ma c'è da dire un'altra cosa, i CPT quando vennero ideati e poi costruiti vennero anche dal punto di vista architettonico messi in piedi in condizioni peggiori per far star peggio le persone che venivano contenute che le persone che andavano in carcere. E questo uno si domanda per quale motivo i migranti al di là di tutto che vengono presi per strada solo perché non hanno il permesso di soggiorno o perché è scaduto il permesso di soggiorno devono essere messi in una condizione che ha come riferimento le gabbie degli zoo, insomma. Perché questa, cioè, i primi CPT avevano quel tipo di caratteristiche e forse anche oggi, insomma. Adesso Bologna è molto che non se ne parla perché il centro esiste ancora, ha cambiato destinazione, non ha cambiato molto la sua struttura muraria effettiva, però è chiaro che c'è meno attenzione, ma quando venne aperto immediatamente la cosa che giustamente gli attivisti e le attiviste fecero emergere era questo tipo di condizione. La seconda condizione era che quando uno viene chiuso in un centro di detenzione per migranti si sa quando entra ma non si sa quando esce. E anche questa cosa, cioè non ha nemmeno, tra virgolette, la certezza della pena, che è la cosa che chiedono appunto tutti per il carcere. Ma se siamo arrivati a questa condizione, insomma, di avere bisogno come società di strutture detentive per affrontare i problemi sociali che sono esplosi in questi anni, è perché è passata questa logica manettara che ha sostenuto politiche che hanno, diciamo così, attraversato sia forze politiche di destra o che sono attualmente al governo, ma forze politiche che c'erano anche prima. Insomma, cioè abbiamo avuto le stagioni dei 5 Stelle che hanno costruito questo tipo di condizione culturale, insomma, nella società. Giornali come il Fatto Quotidiano sono nati appunto con questo tipo di logica, insomma. E i cambiamenti che ci sono stati diciamo nel sentimento comune che va per la maggiore, che prima i carceri erano considerati degli hotel a 5 stelle, sa bene per quello. Poi dopo il passaggio successivo è stato quello che c'era troppa libertà in carcere, oggi siamo ormai a una condizione per cui non interessa per nulla quello che si vive all'interno delle carceri, si dice l'importante è chiudere e buttare via la chiave. Allora, di fronte a questa situazione, una logica abolizionista deve riuscire a costruire dei percorsi concreti per intanto intaccare questo tipo di condizione e per costruire però anche dei processi che possono portare concretamente a dei cambiamenti. È insufficiente, cioè poi, ma questa non è una critica che faccio, diciamo, a voi che siete qua a discutere con me di queste cose, ma a volte c'è questo sentimento di le carceri vanno a distruttere, poi hai detto questa cosa, hai piantato il tuo paletto, però comunque la situazione è sempre quella, rimarrà sempre quella. Entrare nei meccanismi dell'istituzione carceraria, costruire dei percorsi che possono essere credibili, è importante, perché io ultimamente, insomma, ho ripreso con forza anche a pensare che quando a metà degli anni 80 Mario Tomasini, che era un piccolo amministratore del comune di Parma, lanciò quest'idea di costruire un movimento che aveva come nome Liberarsi dalla città del carcere. Questo movimento, questa parola d'ordine, era una parola d'ordine che veniva supportata da Tomasini attraverso dei meccanismi molto concreti. Perché il problema, in primo luogo, è far uscire le persone dalle celle, ma c'è anche il problema di non farle rientrare subito dopo. Una cosa su cui noi dobbiamo assolutamente fare una battaglia politica è anche dimostrare che anche rispetto al loro discorso ipersecuritario, insomma, su cui hanno costruito fortune politiche, campagne elettorali e quant'altro, queste politiche della sicurezza, queste politiche monetarie, questo penalismo giuridico da cui siamo stati costretti, produce il fatto che il 75-80% delle persone che escono dal carcere ci rientrano subito dopo, perché non ci sono condizioni reali per poter appunto vivere al di fuori di questa struttura per settori sociali che sono quelli chiaramente più deboli. Cioè oggi la composizione delle carceri è la composizione dal punto di vista sociale molto più povera di quella di 20 anni fa. C'è della gente che entra in carcere con solo un paio di ciabatte e un paio di calzoncini e una maglietta e ci sta per tanti mesi in quel tipo di condizione. L'altra cosa curiosa è questa, che metà, almeno metà, se non di più, forse molto di più, delle persone che sono in carcere potrebbero usufruire, cioè senza nulla di rivoluzionario, delle cosiddette pene alternative, delle misure alternative alla detenzione, perché sono tutti nella condizione di poterlo fare. Ma questo percorso che era previsto da una legge, che fu il frutto di una battaglie dentro le carceri, di fuori dentro le carceri, alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, c'è cioè la legge di riforma penitenziaria del 75, che, guardate bene, l'altra casualità, è la legge più attaccata assieme alla legge dell'aborto. Anche questo è un dato abbastanza curioso, insomma. Bene, quella legge è inapplicata, che prevedeva una serie di misure alternative alla detenzione, è inapplicata per tutta quella parte. E la magistratura di sorveglianza, che avrebbe il compito di in qualche modo analizzare i comportamenti dei detenuti e poi eventualmente far applicare la misura alternativa, ormai svolge una funzione che è un quarto grado di giudizio, perché è anche al di là dei meccanismi diciamo, di funzionamento della magistratura di sorveglianza, che sono allucinanti, che non si capiscono per fissare una camera di consiglio, per esempio, per avere una misura alternativa, a volte ci vuole un anno e mezzo per fissarla, non per prendere la decisione. Quindi siamo in una condizione di questo genere. C'è un detenuto che gli mancano 3 anni, chiede la fissazione della camera di consiglio per poter accedere alla misura alternativa e gli viene fissato dopo 1 anno e mezzo, 2 anni, quindi alla fine si è comunque costretto a fare tutta la pena. Ma poi i giudizi che vengono dati sono giudizi o di tipo morale, nel senso che ancora una volta a persone che hanno, se sono definitive, hanno avuto 3 gradi di giudizio, gli si chiede ma ti sei pentito? Cioè il pentimento è ancora l'elemento che sia in fase diciamo così istruttoria conta, sia in fase di pena conta, perché cambia diciamo così anche il tipo di pena che ricevi, ma anche in una fase successiva alla condanna è un elemento fondamentale per accedere a una misura alternativa. E l'altra questione è che le condizioni esterne per poter costruire questi percorsi molto spesso non ci sono, quasi sempre non ci sono. E allora io dico una cosa, e me ne sto convincendo sempre di più, conoscendo abbastanza bene la realtà del carcere, insomma, che la frequento quasi quotidianamente, e purtroppo da tanti anni a questa parte chi si occupa di detenuti e di detenute per quanto riguarda la loro condizione di detenzione e anche eventualmente in ipotesi successive di uscita dal carcere in misura alternativa o in permesso anche, sono al 95% associazioni cattoliche. Esatto. Che hanno una logica che è quella della carità, dove l'elemento, diciamo così, anche di un percorso consapevole è un elemento secondario, ma che quindi svolgono un compito anche a volte di controllo rispetto ai comportamenti sociali che gli viene richiesto dai magistrati. Ma sono le uniche realtà quasi uniche, perché c'è anche qualcos'altro, insomma, però veramente molto poco, che si occupano concretamente di questi terreni, cioè di questi problemi. A portare vestiti in carcere sono appunto situazioni di questo tipo, avere volontari che accompagnano detenuti in permesso, perché ci sono molti detenuti o detenute che non hanno rapporti con familiari concreti, e quindi se non c'è questo tipo di cose il permesso non ti viene concesso. A svolgere questo compito sono associazioni di questo tipo. A trovare soluzioni abitative, pochissime, perché cioè, adesso in una realtà proprio come Bologna, dove la casa non la trova ormai più nessuno, se non si, figuriamoci per un detenuto o una detenuta, insomma. Però le pochissime cose che ci sono diciamo così, gestite dalla Chiesa. Ora, questa cosa secondo me deve farci pensare, perché o si costruisce con una logica diversa, che è quella di cui da tempo stiamo parlando, quella del mutuo soccorso, del mutuo aiuto, percorsi anche di questo tipo rispetto all'universo carcerario, all'universo dei migranti richiusi nei CPR. Se non si comincia a ragionare e a costruire anche realtà concrete su questo terreno, i nostri discorsi sono giusti, rimangono tali e hanno poche possibilità di espandersi. E questo lo dico, guardate che oggi parlare di carcere fuori dal carcere è già importante, esatto. E si aiuta anche in questo modo i detenuti, perché il primo problema è che non ne parla, cioè non se ne parla per niente a questi livelli, con questo tipo di approccio. Quindi parlarne fa già bene, cioè è già un primo elemento importante, poi ci vuole un secondo passo. Dico questo perché sono stimolato anche in questo tipo di ragionamento dal fatto che gli operai della GKN, che per tanti di noi in questi mesi sono stati un punto di riferimento, una boccata d'ossigeno con la loro lotta per costruire un percorso che di nuovo sia credibile a livello politico e sociale, insomma, con le cose che anche con l'organizzazione della manifestazione che c'è da Bologna. Ecco, da un mese e mezzo, 2 mesi a questa parte, cominciano ad occuparsi anche del problema del carcere. E quindi è significativo da questo punto di vista. Hanno cominciato appunto col carcere di Solliciano a Firenze e stanno ragionando, credo domani ci sia a Milano un incontro appunto con quelli alla Rimaflo, insomma, per ragionare a percorsi di uscita dal carcere con logiche di questo tipo. Allora, secondo me, cominciare a costruire percorsi di questo genere è il modo più concreto per far sì che una logica abolizionista possa avere delle gambe reali. Dico questo perché abbiamo anche, diciamo così, la possibilità di vedere che gli altri percorsi, al di là di, appunto, di quelli securitari classici, non hanno prodotto niente. Un esempio concreto, sapete qual è? Per il discorso del Covid, della pandemia, ci fu immediatamente, di fronte alla possibilità prevista dal decreto appunto fatto dal governo all'epoca, di uscire in arresti domiciliari per detenuti che avevano ancora 18 mesi di pena. Vi ricordate la campagna che immediatamente Repubblica portò avanti, usciranno 400 mafiosi? Esatto. E quindi quella campagna servì a bloccare l'efficacia del provvedimento da una parte e a dare delle linee molto precise. Ecco, quello che è successo per esempio è questo, che in una regione come la nostra, che ha voluto essere all'avanguardia, con un provvedimento sono stati stanziati 457 mila euro per trovare dei luoghi di accoglienza per detenuti che potevano appunto usufruire di questa licenza, che così viene chiamata, di 18 mesi, che non avevano familiari e quindi poter fare questa cosa. Ecco, sapete quante persone sono uscite con questo provvedimento? 14 in tutta la regione. Perché 14 in tutta la regione? Cioè sono stati spesi un decimo dei soldi che sono stati stanziati, tutti gli altri sono lì, andranno in cavalleria, cioè quindi anche su, su, cioè, di fronte a situazioni diciamo così da poter utilizzare. Ora, questo perché è avvenuto? Perché la magistratura di sorveglianza non ha dato l'autorizzazione ad uscire a persone che gli mancavano 18 mesi dalla fine della pena. E però non c'è stato, diciamo neanche così, non si è creata una condizione che potesse concretamente portare a dei percorsi di questo tipo. E oggi, finisco, l'altro esempio significativo appunto di questa situazione è che 700 persone uscite in tutta Italia con il provvedimento alla fine dell'anno, perché questo provvedimento scade il 31 dicembre, dovranno tornare in carcere, anche questa cosa. E il dato curioso è questo, che di queste 700 persone che sono uscite non c'è né una che è stata colpita da un provvedimento per aver commesso un reato. Quindi anche da questo punto di vista questo, diciamo, è l'esempio che sta a dimostrare che uscire dal carcere produce anche un effetto sociale completamente diverso rispetto a quello che il carcere produce quotidianamente a livello di recidiva, per esempio. Allora, grazie, grazie veramente per gli interventi. So che siamo andate un po' lunghe. Sì. Quindi io vi proporrei di magari tenere le 8:30 come limite, e raccoglierei un po' gli interventi chiedendo magari di limitare i tempi degli interventi, sì. Non aggiungo altro su questo. Volevo dire alcune cose. Che secondo me quello che ha detto Valerio è abbastanza importante in questo senso, che tenendo fermi i nostri principi, no? Perché siamo tutti per l'abolizione del carcere, siamo tutti convinti che il carcere sia una violenza continuamente perpetrata, soprattutto a scapito delle classi più povere, mentre ad esempio i mafiosi, i ricchi, in qualche modo, voglio dire, no? hanno la possibilità, anche se sono in carcere, comunque anche di continuare le loro attività mafiose e di vivere anche nel carcere una vita da nababbi, perché questo è dimostrato, che anche il carcere all'interno ha le sue discriminazioni sociali, che chi sta male in carcere sono i poveracci, è vero o no? Ecco, quindi tenendo fermi i nostri principi, volevo dire anche un'altra cosa, no? Perché la compagna diceva, no, che Basaglia riuscì in qualche modo a eliminare un'istituzione come il manicomio, che era un'istituzione che recludeva, che segregava e che quindi era anche quella un'istituzione ingiusta della nostra società. Però voglio dire, Basaglia è vissuto nel 68, quindi alle spalle aveva un movimento di ribellioni, un movimento sociale che in qualche modo lo ha aiutato a cambiare le cose. Ecco, questo per dire oggi come ci troviamo? Allora, di fronte a un provvedimento che ha della Meloni contro il REV di Modena, siamo a questi livelli, eh? Quindi l'associazionismo non è, in qualche modo è bloccato per decreto di legge. Dunque, stanno promuovendo l'ergastolo ostativo. Anche l'ergastolo ostativo è una di quelle ingiustizie, mentre già l'ergastolo di per sé qualche forma di, diciamo, di beneficio lo dava, l'ergastolo ostativo è l'assoluta negazione, è vero? Quindi, esatto. Dunque, parlavamo... No, dunque abbiamo detto che durante il lockdown la vita nel carcere è esplosa, perché addirittura a Modena ci sono stati dei morti perché hanno tolto, dunque non funzionava più la sanità, non c'erano più i rapporti con l'esterno. Quindi nei periodi di crisi, quello che voglio dire, che tenendo fermi i nostri principi, voglio dire, alternativi, che vogliamo una società giusta, che vogliamo abolire queste cose, però le istituzioni peggiorano e intervengono in maniera diretta sul carcere, mentre a livello popolare la popolazione è talmente in crisi, è talmente indebitata, è talmente presa dai propri problemi quotidiani che sembrano non essere risolti, che o si prova a creare un movimento, come diceva Valerio, che gli operai finalmente stanno provando a fare, o altrimenti i nostri bei principi rimangono una nostra sofferenza e non riusciamo in nessun modo a incidere. Grazie, grazie mille. Prima di aprire ad altri interventi volevo approfittarne per dire che nel tavolo in fondo c'è il libro Corpi reclusi in attesa di espulsione che è in vendita, che può essere preso, e c'è la possibilità anche di tesserarsi ad Antigone, in Emilia Romagna. E anche di cenare dopo, chi vuole far chiacchiere. No, e c'è anche la possibilità di cenare dopo. Adesso sempre con la richiesta, siamo alle 20:25 di limitarsi, però terrei un altro intervento importante. Beh, sicuramente il carcere è lo specchio della società, e quindi nel momento in cui l'attacco generalizzato ai lavoratori, ai poveri in tutte le forme di questo attacco, sicuramente il carcere lo subisce ancora di più, e vedendo un po' quello che si riesce a mettere in campo fra tutti, tante volte sembra che il nostro intervento siano gocce nel mare, però se è vero che nel 68 c'è il movimento, tentiamo di ricrearlo per quanto possibile questo movimento. Insomma, l'indicazione di convergere da parte del KN è chiara, quindi vediamo settori di società operaia che si cominciano a porre il problema del carcere, e tentiamo di allargare il più possibile gli interventi e di trovare un coordinamento, se non una sintesi, il fatto che anche interventi con modalità estremamente diverse possono viaggiare parallelamente, intrecciandosi, rafforzandosi l'uno con l'altro. E niente, l'ora è tarda, non volevo attardarmi molto, volevo invitarvi anche a continuare il ragionamento sul carcere. È un'iniziativa che abbiamo domani all'ex centrale in via Corticella, e dove praticamente si terrà un secondo appuntamento di un'assemblea che è stata indetta per la prima volta a Modena l'anno scorso in preparazione dell'anniversario che ci sarà in marzo per le stragi nelle carceri del 2020, e in particolare indetto dal Comitato Verità e Giustizia per i Morti del Sant'Anna di Modena, un comitato di compagni molto agguerriti che lavorano appunto perché non cada nel silenzio quanto è successo a Modena come strage carceraria, e che si occupano di carcere in maniera costante. E abbiamo raccolto l'invito come associazione Bianca Guidetti Serra a farlo a Bologna per una questione di una maggiore raggiungibilità anche da altre parti del paese, visto che verranno compagni e compagne dalla Toscana, dal Trentino, da Napoli, da vari posti della regione, da Pesaro, eccetera, per confrontare le varie pratiche sulla questione carceraria. E in particolare la mattina volevamo lasciare spazio a dei momenti di approfondimento sul carcere e salute, sulla psichiatrizzazione della pena, sull'ergastolo, stattività e 41 bis e anche uno più pratico di coordinamento di vari sportelli che stanno nascendo in giro per l'Italia di sostegno ai detenuti, consulenza ai familiari, supporto legale e stanno nascendo in particolare a Modena, è appena nato uno, un altro a Padova, un altro a Palermo, un altro a Napoli e quindi si comincia a confrontarsi a Pesaro con ACAD, si comincia a confrontarsi sulla pratica delle problematiche che si incontrano. E nel pomeriggio, dopo un pranzo sociale che vorremmo dedicare come benefit a una anziana compagna che è stata buttata in carcere pochissimo tempo fa, un'anziana compagna di Bari che per motivi risibili alla veneranda età di 75 anni è stata sbattuta in galera per una lite di condominio e quindi abbiamo pensato di dedicarle un po' di sostegno pratico e il pomeriggio invece ci sarà un'assemblea per confrontarsi sulle varie iniziative, sia quelle che riguardano l'organizzazione del terzo anniversario delle stragi in carcere, in particolare a Modena dove c'è stata la strage di Sant'Anna, ma anche in altri luoghi. E poi di vedere, di dare anche degli esiti pratici alla discussione della mattina, nel senso che nel momento in cui si approfondiscono tutto l'orrore della condizione carceraria, dalla negazione dei diritti basilari alla salute, ma anche alla speranza, insomma ci sono stati fino adesso tanti suicidi nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno, con una sostanziale induzione al suicidio, perché nel momento in cui si nega ogni possibilità di sperare, chi ha anche una maggiore fragilità evidentemente non ce la fa. E volevamo affrontare le possibilità, che ne so, attraverso campagne informative, intanto cominciare a parlare di carcere nella società, tranne attraverso appunto dalle trasmissioni radio, dalla diffusione di manifesti, dalla moltiplicazione delle occasioni, anche tentando di portarle al di fuori dei luoghi dei compagni, cioè che va benissimo continuare a farli, però il problema è che dovremmo anche affrontare quello che c'è al di fuori di una società sempre più permeata dal populismo penale di cui parlava Valerio. Ecco, quindi io vi invito, se riuscite domani a fare un salto alla centrale, e noi cominciamo, abbiamo dato un appuntamento alle 10:30 del mattino fino alle 5:30, 6 di sera, e ci troverete lì a parlare di carcere. Grazie mille. Vorrei chiedere a Francesca se appunto per diciamo sono stati tanti gli spunti di insomma rispondere anche agli spunti di Martina, agli spunti di Valerio, quelli che sono venuti dal pubblico e poi chiudiamo, però mi piacerebbe lasciare questo momento. Grazie Giulia, grazie a tutte e tutti. Sacco di interventi, di spunti, ma sarò brevissima, poi tanto insomma, stiamo lì, chiacchieriamo, sì, oggi sono la brevità. E, no, più che altro insomma sto anche imparando tanto con insomma, interventi tutti e tutti. E, una cosa importante, insomma, mi sollecitava tanto, no, quello che diceva Valerio, che poi hanno detto anche le compagne dopo. Sai, io quando penso al discorso dell'abolizionismo e che cos'è l'abolizione, io non mi immagino, cioè lo vedo come un processo, no? E, appunto, questo per esempio, ripeto questo nome che ha menzionato anche Martina, perché è una persona insomma che per me insomma, ha ispirato molto, sta scrivendo, ha scritto molto su, sull'abolizionismo a partire dalla sua esperienza diretta di attivismo e di impegno, che è la Ruth Wilson Gilmore, che è questa donna afroamericana appunto che ha lottato a fianco di Angela Davis e di tante altre. E lei proprio, cioè, lo dice sempre, lo ripete sempre nei suoi interventi ovunque va, no? Cioè, il pensiero abolizionista, la pratica abolizionista è un processo, è qualcosa che si costruisce. Molto spesso, come dire, ci sono tante persone, tanti e tanti di noi che in realtà mettono in pratica l'abolizionismo nella loro vita quotidiana senza chiamarlo abolizionismo, no? Le lotte degli operai nelle fabbriche, cioè tutte le lotte per affermare un diritto alla vita, nel senso di un diritto di risorse comuni, no? Di beni comuni, di costruire appunto strutture comuni di vivibilità e di vita degna per tutte e tutti, no? E per una possibilità di appunto respirare liberamente. Questo è abolizionismo per me, no? A prescindere poi dall'etichetta che tu dai, se lo vuoi chiamare sono abolizionista o non sono abolizionista. E questo si fa appunto nella pratica quotidiana, si fa in molti luoghi, si sta facendo, cioè sta avvenendo. Ovviamente più i contesti esterni sono ostili, sono duri, sono appunto di precarizzazione, di violenza, no? Più diventa difficile, è ovvio. Però appunto è importante guardare, no? Cioè, perché esiste, si sta facendo, no? È lì. A volte appunto magari non mettendolo sotto quel cappello, magari a volte non mettendo, diciamo, in articolazione, no? Queste esperienze, invece appunto poi quando vengono messe in articolazione, come la lotta degli operai appunto che menzionavi, appunto nascono cose potentissime, no? E penso soprattutto che, di questo sono fermamente convinta, e anche a che fare con la mia storia, che parte da una che in ICPR c'è entrata per fare solidarietà diretta e che continua ancora ad oggi, nei vari posti dove sto, recentemente in Inghilterra, a fare solidarietà diretta con le persone in detenzione e detenute, con tutte le complessità e i limiti che questo implica, perché vuol dire appunto interfacciarsi in qualche modo con l'istituzione della violenza di cui parla Basaglia, che più volte abbiamo menzionato. Ma per me è fondamentale farlo, perché secondo me non ci può essere nessun progetto di abolizionista e di, diciamo, di rimmaginazione nuova e altra che non sia a partire dalle esperienze dirette di chi in quei luoghi ci sta ogni giorno. Quindi è solo, diciamo, attraverso una lotta che parte da un'esperienza di solidarietà pratica, diretta, con tutte le sue complessità, che secondo me si può costruire questo percorso. Poi ovviamente è importante appunto costantemente riflettere, no, in spazi anche come questi, su, come dire, quali sono queste complessità, contraddizioni, e come le stiamo affrontando e come possiamo ripensarle, no? Cioè, per esempio, con questi gruppi con cui io diciamo collaboro, con cui facciamo solidarietà diretta alle persone in detenzione nel Regno Unito, in Inghilterra costantemente c'è, cioè, proprio l'altro giorno abbiamo fatto un ennesimo seminario in cui tra volontari, persone di tutti i tipi, di tutte le età, cioè ci si confronta per riflettere cosa vuol dire stare in solidarietà con qualcuno in detenzione e andarla a visitare, come si può pensare questo scardinando logiche che appunto riproducono politiche di compassione e gerarchie, no? Di le gerarchie razzializzate, genderizzate, di classe di cui abbiamo parlato ora, come si può appunto essere qualcuno che appunto accompagna e supporta, no? Non lasciando lo spazio, mettendo al centro l'autodeterminazione, no? Cioè, queste sono tutte questioni che non ci sono ricette, no? È necessario un confronto costante a partire dalle pratiche quotidiane, no? Da quello che si vive, che si sperimenta, cioè questo qui secondo me è fondamentale. Quindi questo, e penso, l'ultima cosa che voglio dire, che quello che dicevi Valerio del cambiamento culturale è fondamentale, cioè bisogna ripartire da, secondo me, cioè ripartire o continuare da un'educazione, diciamo, di base, diffusissima, per proprio scardinare quei meccanismi che ovviamente sono imposti attraverso, cioè, la narrativa mediatica, attraverso il discorso pubblico, attraverso le politiche, no, di costruzione dell'altro pericoloso, dell'altro differente da noi, cioè, e ripartire, cioè, proprio, no, da costruire dei legami di comunitari di base. Nel Regno Unito penso che molti avranno, cioè, molti di voi forse vi sarà arrivata questa notizia, ci sono stati degli eventi molto importanti, siccome negli ultimi anni, in particolare cioè, non solo dalla Brexit, sono anni, però ovviamente adesso si è ancora più acutizzato col piano del Ruanda e tutte, insomma, queste robe orribili, ma c'è stato un attacco fortissimo, no, alla questione delle persone, diciamo, razzializzate come straniere, e però c'è stata anche una resistenza molto forte e ci sono state delle azioni proprio di, per bloccare deportazioni, cioè momenti in cui questi funzionari di immigrazione vanno e prendono le persone a casa la mattina, di notte, in questi momenti in cui sono più vulnerabili. E questo è stato fatto, diciamo, proprio attraverso reti che sono state costruite, che non sono state costruite da un giorno all'altro, ma c'è un lavoro gigantesco dietro, di educazione costante, di workshop, di stare nelle comunità, di formare, identificare quando avviene un raid, formare, identificare come si interviene quando avviene un raid, a creare reti di WhatsApp in cui in un momento in cui lo vedo inizio a comunicare e nel giro di un quarto d'ora ho 50 persone per strada che iniziano a circondare il furgone e a bloccare e impedire la deportazione. Questo è stato, con lo slogan che, diciamo, noi in questo quartiere non accettiamo raid, perché noi in questo quartiere non accettiamo che i nostri vicini vengano deportati, perché loro non sono migranti legalizzati, clandestini, sono i nostri vicini, no? Quindi secondo me ripartire da questo è fondamentale. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie anche a voi.